Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, sono le 13.33 minuti e 25 secondi, siete all'ascolto di Radio 24, il Sole 24 ore, parte una nuova settimana di inchieste, di reportage e in questa prima parte, cioè oggi e domani, vogliamo fare il punto con alcune testimonianze sull'Aquila e il terremoto in Abruzzo due anni dopo. Italia in controluce dunque manda in onda due reportage importanti, oggi il primo, entrambi girati lungo le strade, le piazze delle grandi e piccole città abruzzesi, tra la rabbia degli scampati, la memoria di chi non c'è più, tra scandali e promesse mancate. Il primo racconto è di Sabrina Pisu. Non c'è nulla della vita precedente pre-sisma, non esiste più niente, perché oltre a non avere lo spazio e oltre a non sapere per la maggior parte delle cose che fine abbiano fatto, che ci abbiamo avuto la casa disastrata, sono caduti i soffitti, quindi siamo usciti miracolosamente illesi. Alberto Baiocchetti ha 47 anni e vive con la compagna Antonella e la piccola Chiara in un MAP, un modulo abitativo provvisorio, uno degli oltre 1000 appartamenti prefabbricati costruiti dopo il sisma nei comuni del cratere. Siamo a Casentino, una frazione di Sant'Eusanio Forconese, un borgo distrutto alle pendici del Monte Cerro, a 10 km dall'Aquila. Il ricordo di quei 30 secondi è ancora nitido nella memoria di Alberto. Dormivamo tutti e tre nella stanzetta da letto e mentre io sentivo cadere i tonfi dei mattoni, dei pezzi dall'alto e pensavo che crollasse anche la stanza da letto dove stavamo, noi ci siamo stretti. Quando è finita la scossa, ai 25-30 secondi, la sensazione era quella del soffocamento, perché si è alzata una nube di polvere impressionante. L'odore è una cosa che non mi dimenticherò mai, l'odore del terremoto, è una cosa fortissima che ti rimane dentro. La luce se n'era andata, continuava a uscire gas dai termosifoni. Ci siamo presi, abbiamo avvolto la bimba in una coperta, ci siamo indirizzati verso la porta di uscita della camera da letto. A tentoni siamo riusciti a salire su queste macerie, a imboccare la porta di uscita e da lì scappare. Quella notte di due anni fa il terremoto distrugge l'Aquila e segna il destino dei suoi abitanti. 309 vite spezzate, il tempo sembra fermarsi per sempre, le lancette della torre campanaria di Sant'Eusanio indicano ancora le 3.32. Intanto il territorio è profondamente cambiato, la campagna è stata divorata da nuovo cemento. Oltre ai MAP ci sono gli alloggi prefabbricati del progetto case, appartamenti dai 40 ai 60 metri quadri, dislocati in 19 località dove oggi vivono 14.000 persone, un consumo di suolo agricolo di 250 ettari espropriati dalla protezione civile ai legittimi proprietari per costruire queste case, un progetto costato circa 800 milioni di euro, appartamenti di 2.800 euro al metro quadro, un costo tre volte superiore a quello di mercato, con un cambio di fatto del piano regolatore che ha reso costruibili aree che prima non lo erano. Nel progetto case di Paganica, una frazione dell'Aquila ai piedi del Gran Sasso, vive Patrizia. Il progetto case è in piena decadenza. Io ho un bagno che perde acqua dal giorno in cui sono entrata, non è mai venuto nessuno ad aggiustarlo. Privatamente non mi viene nessuno a pagamento perché non si prendono la responsabilità. Il bagno ha il parquet e ho il parquet completamente tutto sollevato. Poi perde l'acqua anche dall'appartamento sopra, quindi ho tutta una parete dove scende l'acqua. Già da subito, dai primi mesi, abbiamo cominciato ad avere problemi all'interno. Ci sentiamo in prigione, non so come dire, abbandonati completamente. Ci spostiamo a Donna, altra piccola frazione del comune dell'Aquila, rasa al suolo. In 41 quella notte hanno perso la vita su una popolazione di 350 abitanti. Accanto ora c'è la nuova Onna, una distesa di casette di legno, realizzate con i soldi donati dalla Croce Rossa. In una di queste vive Antonio Foresta, che ha 70 anni. Speriamo che la ricostruzione si avvii. È tutto fermo, avranno tolto oggi come oggi 30-40% delle macerie, 60-70 ancora sta dentro. Le macerie non stanno solo a una, stanno pure negli altri paesi, sta la città. È triste. 36.000 persone sono in attesa di tornare nella propria casa, 1.600 sono ancora ospitate tra gli alberghi della costa e le caserme della Guardia di Finanza e Campomizzi. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, l'8 marzo in segno di protesta aveva depositato le sue dimissioni, ritirate dopo l'incontro del 26 marzo col governo a Palazzo Chigi. Il primo cittadino lamenta un ritardo terribile e chiede per il futuro decisioni partecipate. Non è rinata l'Aquila, il governo non ha ricostruito la città. Nel 2010 non si è fatto nulla, nulla. Poi si dice, ma no, il problema è il comune dell'Aquila, non fa il piano di costruzione. Qui non è partito nulla, né al centro storico, dove io aspetto i progetti da dicembre dell'anno scorso, ma soprattutto alla periferia. Di case finora ne sono state quelle con danni gravi e ne sono state risistemate forse 20 appartamenti. A fronte di 20.000. Lei in passato più riprese ha denunciato la mancanza di fondi. Ora ci sono i soldi per la ricostruzione? Per la ricostruzione delle case ci sono. Ci sono, questa è la rabbia che ho. Credo che anche gli ascoltatori in questo momento dicano, ma che sta succedendo? Ci sono i soldi, non ci sono state le norme. C'è una situazione di allarme vero. All'Aquila non vi sono segnali di una pianificazione della ripresa ed è stata creata con un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri una struttura di missione, una gestione poco chiara, secondo il primo cittadino, che rallenta il processo di ricostruzione. C'è questa struttura commissariale molto forte. È la prima volta che c'è una struttura commissariale così forte in una gestione post-sismica. Questa cosa sta portando su una gravissima perdita di tempo. Come lavora questa struttura commissariale e quanto costa? Mi lasci avvalermi la facoltà di non commentare. Ci sono strutture tecniche di missione, cioè c'è tutto lo sfolgorio anche di consulenze e così via. Tra l'altro il comune dell'Aquila che è chiamato uno sforzo enorme. Noi abbiamo controlli ripetuti, invece ho visto che c'è una manica molto larga per le strutture commissariali, di cui non si discutono tutta una serie di vicende. Il rischio è che l'Aquila muoia, insieme a tanti centri storici distrutti dal sisma, denuncia l'architetto urbanista Antonio Perrotti, dirigente della Regione Abruzzo. Il rischio è che il centro storico diventi una sorta di Pompei, nel senso che si sta deteriorando sempre di più e non ci sta un piano di ricostruzione, non ci sono le priorità del cratere. Anche le macerie erano state commissariate a Gianfranco Mascazzini, ex direttore generale del Ministero dell'Ambiente e commissario per il rischio idrogeologico in Abruzzo. Una settimana dopo la nomina è stato arrestato insieme ad altre 13 persone dai carabinieri del NOE e della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'operazione contro i reati ambientali coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Intanto quasi tutte le macerie restano da smaltire. È un grosso affare perché c'è un trattamento da fare, un rimborso a metro cubo. Se capiamo bene che lo scenario è la lotta sugli appalti e sulla gestione finanziaria e immobiliare del terremoto, è una lotta, direi, all'ultimo sangue sotto questo profilo. Per superare la gestione commissariale e affidare la ricostruzione agli enti locali con la partecipazione dei cittadini è nata una legge d'iniziativa popolare promossa dal presidio cittadino presso il tendone di Piazza Duomo. Ettore Di Cesare è tra i cittadini impegnati nella stesura. Il punto fondamentale è appunto avere una legge organica per la ricostruzione di questo territorio, come si è sempre fatto per tragedie simili. All'Aquila questa legge non c'è. Uno. Due, è la legge appunto esprime la necessità di non avere dei commissari straordinari per la ricostruzione, ma che la ricostruzione sia affidata dalle amministrazioni, che sono quelle elette legittimamente dagli abitanti di questo territorio. Ricostruire la città significa far ripartire l'economia, dice Umberto Trasatti, segretario provinciale della CGIL dell'Aquila. La situazione economica purtroppo è molto pesante, perché la cassa integrazione ordinaria nell'industria aumenta del 482% e quella in deroga nell'industria aumenta di quasi il 2.500%. Da due anni dal terremoto non c'è un solo intervento, a partire dal governo, che aiuti la ripresa delle attività produttive. L'Aquila avrà un futuro solo se avrà giustizia, la chiedono i familiari delle vittime del terremoto, che si ritrovano ogni mese ad accendere una fiaccola della memoria. Antonietta Centofanti è la zia di Davide, 19 anni, il più piccolo a perdere la vita col crollo della casa dello studente. Oggi è la presidente del Comitato delle Vittime dell'edificio di Via 20 Settembre. Noi crediamo che queste ferite possano ricevere un minimo di medicamento dalle sentenze giuste. Qui sono morte 309 persone e forse avrebbero potuto salvarsi. Questo dice il PM nelle sue conclusioni, che molti crolli potevano essere evitati perché lì si è costruito male, con cemento fatiscente, piani abusivi, poca qualità in tutto ciò che serve tirare su una palazzina. Quindi questo significa che ci sono delle responsabilità. Il terremoto è stata una delle concause, forse non la principale, e questo è terribile. Chiediamo di portare una fiaccola accesa perché la luce illumina e noi vogliamo che venga illuminata la verità. Perciò non smetteremo e andremo avanti finché questa verità non venga alla luce. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile le luci delle fiaccole illumineranno come ogni mese la città ferita, per non dimenticare, per chiedere che chi ha sbagliato paghi, per rinascere, perché, come recita lo stendardo, l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Grazie a Sabrina Pisu, torniamo domani con un nuovo reportage sul terremoto all'Aquila, parleremo di Onna e delle inchieste con il reportage di Raffaella Calanda, domani dunque alle 6.30 invece con un'intervista di Alessandra Tedesco allo scrittore Andrea De Carlo.